50 domande su Gesù. Di che cosa tratta il Vangelo di Filippo? Si tratta di uno scritto contenuto nel Codex II della collezione di codici copti di Nag Hammadi, ora nel Museo del Cairo. Non ha niente a che vedere con un Vangelo di Filippo citato da Sant'Epifanio, che dice che era utilizzato da alcuni eretici d'Egitto, né con quello che altri scrittori ecclesiastici fanno risalire ai manichei. Lo scritto di Nag Hammadi riporta alla fine il titolo Vangelo secondo Filippo, sebbene in realtà non è un Vangelo, non è una narrazione della vita di Gesù, e il testo non si presenta come di Filippo. Tale titolo è un'aggiunta posteriore alla redazione originale, sulla base del fatto che nello scritto si attribuisce a questo apostolo il detto che Giuseppe il falegname fece la croce dagli stessi alberi che lui aveva piantato. L'opera contiene un centinaio di pensieri più o meno sviluppati, senza che abbiano un collegamento coerente fra di loro. In 17 casi si presentano come detti del Signore, di cui 9 provengono dai Vangeli canonici e gli altri invece sono originali. La maggior parte delle volte si tratta di paragrafi estratti da fonti anteriori di carattere omiletico o catechetico. Riflettono una dottrina gnostica peculiare, anche se in parte simile a quella di altri eretici gnostici come i Valentiniani. I punti essenziali sono: A. La comprensione del mondo celeste, pleroma, formato da coppie, il Padre e Sofia Superiore, Cristo e lo Spirito Santo, inteso quest'ultimo come femminile, e il Salvatore e Sofia Inferiore, da cui procede il mondo materiale. B. La distinzione di vari Cristo, tra cui Gesù nella sua apparizione terrena. C. La concezione della salvezza come l'unione, già in questo mondo, dell'anima, elemento femminile dell'uomo, con l'angelo procedente dal pleroma, elemento maschile. D. La distinzione fra uomini spirituali, pneumatici, che raggiungono questa unione, e gli psichici e ilici, o materiali, ai quali questa unione è inaccessibile. Fra i punti che più hanno attratto l'attenzione su questo Vangelo è ciò che in esso si legge su Gesù e la Maddalena. Questa è presentata come la compagna di Cristo e in questo punto il testo è danneggiato. Si dice che il Signore la baciò ripetute volte perché la amava più di tutti i discepoli. Queste espressioni, che a prima vista potrebbero sembrare erotiche, si impiegano per simbolizzare che la Maddalena aveva acquistato la perfezione propria degli gnostici ed era arrivata alla luce perché glielo aveva concesso Cristo. Succede qualcosa di simile quando si parla in questo testo della camera nuziale come un sacramento o letteralmente mistero che diventa il culmine del battesimo, dell'unzione, dell'Eucarestia e della Redenzione. L'immagine del matrimonio è impiegata come simbolo dell'unione tra l'anima e il suo angelo. Nel Vangelo di Filippo, tale sacramento rappresenta l'acquisizione dell'unità originaria dell'uomo già in questo mondo e che culminerà nel mondo celeste, che per l'autore è la vera e propria camera nuziale.